Un anno soddisfacente oppure insomma si poteva fare meglio? La crisi ha continuato a mordere anche sul credito immobiliare. E diciamo che ormai siamo al 30 dicembre, quindi possiamo parlare di 364 giorni su 365. Effettivamente, come dicevi giustamente tu poco fa, è stato un anno migliore rispetto ai due precedenti, soprattutto il 2008 e il 2009 per i mutui, e sono stati degli anni di sofferenza, sia perché sono calate le erogazioni rispetto agli anni precedenti, si è sentito mordere soprattutto nel 2008 l'aumento dei tassi che ha creato tutti i problemi che tu ricordavi prima. Il 2009, ma soprattutto il 2010 ha invece beneficiato del forte calo dei tassi di interesse, quindi questo non solo ha portato sollievo a chi già aveva un mutuo a tasso variabile in corso, quindi portandolo a pagare in questo caso rate bassissime, addirittura più basse rispetto a quelle ai quali il mutuo era partito in qualunque momento, perché proprio nel 2010 si sono registrati i minimi storici di sempre dell'Euribor, che è l'indice con il quale viene calcolato il tasso variabile dei mutui. Ma è stato interessante perché questa maggiore tranquillità sul mercato del costo del denaro e quindi questi tassi così bassi a livello prolungato hanno man mano riavvicinato alcune fasce di consumatori a questo prodotto, quindi anche all'acquisto casa, ma soprattutto hanno aperto le porte sempre più al cambio mutuo a condizioni favorevoli, quindi tramite la surroga che è partita nel 2007 ma solo nel 2009 è entrata veramente a regime, e con dei tassi così bassi e per un periodo così lungo tante famiglie hanno effettivamente potuto trovare l'opportunità di cambiare un mutuo già in essere, magari anche molto vecchio, anche di 10 anni, a condizioni sicuramente molto più convenienti e quindi potendo alla fine risparmiare anche notevolmente sulle rate che fino a quel momento stavano pagando, o comunque ristrutturare il peso del mutuo sul proprio bilancio familiare mensile in maniera molto più Tra l'altro, sostenibile. ti interrompo già, tutte le criticità legate alla portabilità, questo meccanismo di trasferimento per la ricerca appunto di un mutuo migliore, sicuramente si sono andate notevolmente ridimensionando. Oggi non sembra più essere un problema all'ordine del giorno, davvero ci si può spostare, a meno, certo, a patto di avere le condizioni giuste per ottenere nuovo credito, ci si può spostare da una banca ad un'altra con grande elasticità.